Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. E allora, di nuovo, botta e risposta oggi tra il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e i sindacati. Tra l'altro, un botta e risposta che domani avrà anche un cotè interessante a Bari, dove oggi, e ne parleremo, si è aperta la due giorni biennale del Centro Studi di Confindustria sul capitale sociale, quindi su quello che è l'importanza della formazione. Ma dicevo, domani saranno ospiti in una tavola rotonda sia la segretaria della CGIL Susanna Camusso che il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Perché lo dico? Perché oggi Visco ha detto: le rigidità legislative, burocratiche, corporative, imprenditoriali, sindacali sono sempre la remora principale allo sviluppo del nostro paese. Ci sono quindi imprese, sindacati frenano il paese, pesa anche la burocrazia, ci sono gli stessi lacci e lacciuoli di cui parlò a suo tempo l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli. Oggi si celebrava il centenario della nascita. Immediata risposta da parte dei sindacati. Da Camusso dice: mi sembra un riproporre ricette che hanno già mostrato il loro fallimento. Bonanni, segretario della CISL, dice: Visco parla vanvera sulle rigidità, non può fare di ogni erba un fascio, di ogni erba un fascio, si occupi delle banche. Beh, insomma, però il governatore della Banca d'Italia deve occuparsi delle banche, sicuramente deve occuparsi anche del credito che non arriva alle imprese, però può dire anche la sua sui sindacati, e a mio avviso forse anche mettersi in discussione nella vita serve, a maggior ragione nel momento in cui mettiamo in discussione in primo luogo la classe politica di questo paese. E questo per quello che riguarda il rapporto sindacati e in questo caso governatore della Banca d'Italia. Oggi abbiamo però anche dichiarazioni importanti del ministro dell'economia Padoan, che ascolteremo. Abbiamo, come dicevo, il rapporto che è stato illustrato questo pomeriggio dal Centro Studi Confindustria su capitale sociale, cioè l'investimento nell'istruzione. Allora, vorrei uscire su questo da ogni retorica, però faccio presente, e poi ne parleremo anche nella seconda ora del programma, che come ricordavamo due giorni fa, questo è un paese molto strano perché ha ancora il massimo del risparmio in Europa, anche se molto è stato eroso, molte famiglie sono in difficoltà, però come dimostra anche la raccolta del risparmio gestito, i risparmi delle famiglie italiane italiani restano a livello europeo i più alti, ha molto risparmio e ha molti giovani disoccupati. La battuta che mi ha fatto un economista, ma devo dire che condivido in parte, è che siamo un popolo che ha molto risparmiato magari per comprare la casa al figlio, solo che adesso compri la casa al figlio e te lo becchi disoccupato. Era meglio forse risparmiare un po' di meno, meglio mettere quei soldi più che in immobili o in altre cose in istruzione. L'istruzione costa. Faccio notare che in altri mondi, nei paesi anglosassoni, si mettono da parte i soldi non per comprare la seconda casa o per comprare la casa al figlio, ma per far studiare il figlio nelle migliori università, che come tutti sappiamo costano. Ovvio che non tutti ce lo possono permettere, sto solo facendo un ragionamento in un atteggiamento su cui anche le famiglie italiane dovrebbero fare un minimo di autocritica, perché si è preferito usare i soldi in altro modo che non per l'istruzione dei figli. Non tutti, ci mancherebbe, ma come atteggiamento complessivo. Allora, forse un minimo di autocritica, oltre al sistema scolastico, oltre che agli insegnanti, oltre che a questo paese, lo dovrebbero fare a mio avviso anche le famiglie su come hanno delineato il futuro dei loro figli, se preferivano pensare all'appartamentino da comprargli o a spendere quei soldi per fargli frequentare i migliori college o le migliori università in giro per il mondo. So che adesso qualcuno mi criticherà, ma non me ne frega nulla. Andiamo avanti. Per quello che riguarda la borsa, più 1,55% Milano, più 0,70% Parigi, più 1,30% Francoforte, più 0,30% Londra, più 0,77% l'America. Tra i titoli segnalo di nuovo molto forte il Banco Popolare, più 6,90%, e ieri ha annunciato il prezzo dell'aumento di capitale da 1,5 miliardi complessivo. Molto forte anche il Monte dei Paschi, più 4,26%, e anche Intesa San Paolo, nel giorno in cui ha presentato il piano industriale, guadagna il 3,90%. Abbiamo un'intervista con l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, proprio sulle dismissioni e sul piano industriale, la pulizia nei conti. Milano non a caso è tra le più forti, la più forte direi in Europa, da noi pesano molto le banche sull'indice, vanno bene quindi Banco Popolare, Monte dei Paschi, Intesa San Paolo, ma anche Popolare Emilia Romagna più 3,80%, poi Pirelli più 3,50%, Popolare Milano più 3%, Buzzi Unicem più 2,30%, Fiat più 2,1%, come Telecom Italia e Terna ed Exor. Più 2% CNH, più 1,90% UbiBanca e anche Luxottica. Chi perde? Steam Micro Electronics, meno 1%, Unipulsai, meno 0,30%, G-Tech, meno 0,30%, come World Duty Free e Mediaset. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Eccoci qua. Allora, ma quale risparmio? Allora, abbiamo appena raccontato due giorni fa che Assogestioni, cioè che i fondi che raccolgono i risparmi da gestire, hanno toccato un nuovo record assoluto. So benissimo che c'è un paese che non arriva a fine mese, lo raccontiamo tutti i giorni se permettete, ma c'è un'altra parte del paese che ha 23 miliardi di immobili all'estero, ha una cifra equivalente di investimenti all'estero, ha tuttora il risparmio più alto che c'è in Europa. Allora abbiamo detto semplicemente, molti dicono, ho capito, tanto si laurea e poi non trova lavoro comunque. Vabbè, se questo è il punto, allora non farò neanche studiare dopo i 16 anni, ma che ragionamenti sono? Io ho solo detto che in altri mondi, nel mondo anglosassone tipicamente, le famiglie mettono da parte i soldi per i figli per pagare la loro educazione. È vero che lì è molto più cara l'università, anche la scuola superiore stessa, per non parlare della parte dopo la scuola superiore, diploma breve o lungo che sia. A me è sembrato che l'atteggiamento italiano, posso dirlo un po' rurale, fosse quello di mettere i soldi da parte magari per comprare appartamentino al figlio, quando uno poteva. Quasi mai ho visto mettere i soldi da parte per dire, bene, con questi soldi ti mando nella migliore università dove so per certo, perché non è vero che chi si laurea o comunque fa corsi di studio in luoghi d'eccellenza non trova lavoro. A me non risulta proprio, anzi, ecco, non ho mai visto fare questo ragionamento. Forse un ragionamento un po' miope da parte delle famiglie c'è stato, si può dire. Inutile che alcuni si ritengano colti sul vivo, forse lo sono, non so. Sì, io ho figlio. E a chi me lo chiede, che cosa ho fatto? È ancora piccolo per decidere, ma sicuramente non ho dubbi che se avrò dei risparmi preferisco che vada a studiare in un centro di eccellenza e a quel punto la casa se la compri con i suoi soldi piuttosto che comprargliela io con i miei risparmi. Ma, ma ragioniamo sul futuro o siamo ancora con l'appartamentino che il papà e la mamma ti comprano? Non lo so, chiedo. Andiamo avanti. Andiamo avanti con le altre notizie. Dicevo, la borsa bene, l'euro sempre a quota 1,3750. Per quello che riguarda le notizie che arrivano dall'estero, ci occuperemo anche chiaramente dell'operazione cinese su Eni, perché avremo un rapporto proprio su come stanno andando gli investimenti esteri in Italia. Faccio notare che in Cina più o meno, dai fonti che abbiamo avuto, c'è una disponibilità di capitali che si aggira fra 280 e 300 miliardi che i più grandi fondi di investimento cinesi vogliono investire in Europa, non fanno distinzione tra Italia e altri paesi, per rilevare aziende europee. Sono quasi 300 miliardi di euro. Allora, per quello che riguarda le altre economie internazionali, arriveremo all'operazione cinese su Eni. Dicevo, la Germania oggi, l'inflazione rallenta anche in Germania, più 0,9% a marzo, su base mensile più 0,3%. La Spagna invece va direttamente in deflazione. Per la prima volta dall'ottobre del 2009 i prezzi sono calati dello 0,2%. Pesa, immaginate un po', il calo nei generi alimentari. I consumi in Spagna sono ancora così bassi che i prezzi, perfino i prezzi dei generi alimentari, sono in calo, e anche dei viaggi. Per quello che riguarda invece l'Italia, oggi la buona notizia ha a che fare di nuovo con il nostro debito. L'asta di BTP a 5 anni, il tasso è al minimo storico, cioè mai così poco abbiamo pagato per trovare degli investitori, dei compratori per il nostro debito a 5 anni, l'1,88%. Ancora per quello che riguarda il ministro, già accennavo, Padoan, allora è il momento di cambiare l'agenda politica europea, lo dice il ministro dell'economia italiano. Penso sia il momento di dire che bisogna cambiare la direzione dell'agenda di politica economica, chiaramente, in Europa. Io penso che sia il momento di dire che bisogna cambiare la direzione dell'agenda di politica economica in Europa, non solo perché suona bene, ma soprattutto perché mi sembra quasi la conseguenza logica di quello che è successo da quando la crisi globale è diventata crisi europea. Possiamo divertirci a mettere una data d'inizio, molti la mettono quando è scoppiata la crisi greca, forse è cominciata prima. Se poi a queste parole del ministro seguiranno anche dei fatti, c'è una maggiore capacità di insistere su una diversa agenda di politica economica, o bisognerà attendere la musata che probabilmente arriverà dalle elezioni europee per capire che l'Europa, la gestione dell'euro, non l'euro, basta con sta roba dell'euro, sta follia demenziale di pancia per guadagnare consenso, ma la gestione dell'area euro in questi anni, da quando è scoppiata la crisi, è stata anch'essa demenziale, o meglio recessiva. Comunque il ministro, per Carlo Padoan, è convinto che in Europa a questo punto sia maturo un ragionamento vero e non finto, non fatto di dichiarazioni, sulla crescita. Quello che manca, e ripeto, io sarei molto contento se si togliesse ogni retorica da questa affermazione, è un ragionamento serio e non finto e non ideologico sulla crescita. Come si fa a far crescere l'Europa, che non cresce, cresce poco, cresce molto poco, diciamo da almeno 15-20 anni, e questo vale soprattutto per l'Italia? Qual è la politica o le politiche per la crescita che funzionano nel contesto vero, istituzionale, concreto, non li voglio chiamare vincoli, del sistema di obblighi europei che noi stessi ci siamo dati e che abbiamo rinforzato recentemente a livello nazionale? Ancora, adesso non voglio rispondere, ci sono alcuni che scrivono al 349-238-6666 che invece sostanzialmente è meglio comprare la casa al figlio che investire in istruzione per il figlio. Va bene, mica è un reato, eh? Ho solo detto, attenzione, in altri paesi si fa una scelta diversa, tutto qua. Poi uno può assolutamente preferire l'appartamentino per il figlio, convinto che tanto anche se lo facesse studiare nella migliore scuola o nella migliore università cambierebbe poco, va bene, ci mancherebbe. Faccio notare che in altri paesi non è così. Andiamo avanti, anche la Germania, continua il ministro dell'economia Padoan, deve fare un aggiustamento strutturale. In Europa c'è un'evidente crisi di competitività che riguarda l'economia del sud, ma anche necessita di aggiustamenti strutturali, ossia la Germania deve spendere un po' di più, visto che esporta tanto, e consumare un po' di più, ed è un problema che hanno tutti i paesi, compresa la Germania. Il problema dell'aggiustamento strutturale è un problema che tutti i paesi membri della zona euro hanno, compresa la Germania. Nelle mie funzioni precedenti, quando visitavo la Germania e parlavo con i membri del governo e dell'amministrazione di quel paese, con la mia vecchia funzione facevo notare che anche un paese forte o più forte degli altri come la Germania avesse dei problemi strutturali. E lo ripeto qui non perché voglio nascondere i problemi gravissimi del nostro Paese. E sempre ministro alla Luis per i 100 anni della nascita di Guido Carli ha aggiunto: l'aggiustamento di bilancio dopo la crisi, quindi la riduzione del deficit, ha prodotto risultati estremamente importanti in Italia, chiaramente da difendere. Non possiamo permetterci di buttarli al vento e di buttare quindi al vento gli enormi sforzi fatti per consolidare i conti pubblici italiani. La fase di aggiustamento fiscale che intanto è continuato e ha prodotto risultati estremamente importanti che bisogna difendere. Non possiamo assolutamente permetterci di buttare al vento gli sforzi enormi di consolidamento fiscale che sono stati fatti. Ancora, per quello che riguarda il documento, il DEF, il documento ed economia e finanza, quello che insomma in qualche modo ha sostituito la legge finanziaria, il governo sta lavorando a misure concrete, ha continuato il ministro dell'economia, che saranno a breve nel dibattito parlamentare. E poi ha detto sempre il ministro Padoan, ricordando la figura di Carli, Guido Carli ha consegnato al paese spunti attualissimi, in particolare quella sua famosa definizione di un paese fatto di lacci e lacciuoli. Cioè già allora Carli lamentava una burocrazia soffocante per le imprese, avesse visto cosa è successo poi nel frattempo non so se parlerebbe solo di lacci e lacciuoli. Comunque Padoan: tendo a dire il meno possibile, a meno che non abbia qualcosa da dire veramente, e credo che in questa fase del dibattito della politica economica sia opportuno che il Ministro dell'Economia dica: aspettate un attimo per favore, mi chiedete tutti dei numeri, i numeri ve li darò, speriamo che siano quelli buoni. Guardando indietro alla sua opera, sicuramente ci sono un'enorme quantità di spunti che sono attualissimi, è stato già detto. Ne cito tre perché, credo sia chiaro, sarà chiaro in quello che dirò, spero molto rapidamente, sono estremamente attuali. La prima è la ben nota espressione dei lacci e lacciuoli, che è stata evocata direttamente e indirettamente molto spesso e che credo che oggi sia estremamente attuale anche più che in passato. Il secondo elemento è il fatto che, se non sbaglio, fu Carli che tra altri, ma lui personalmente, insistette molto a dire che il patto di stabilità si doveva chiamare patto di stabilità e crescita. E terzo elemento, che forse non si racchiude in una frase ma è un concetto che traspira dai suoi scritti, è che è utile avere più strumenti di politica economica a disposizione. E fin qui ministro dell'economia Padoan. Poi sale sul palco della Luis sempre per commemorare l'ex ministro nonché governatore Guido Carli. Dico, sale sul palco l'attuale governatore Ignazio Visco e si scatena una polemica con i sindacati. Dice Visco: la rigidità delle imprese dei sindacati, le rigidità delle imprese dei sindacati frenano il paese. I problemi odierni dell'Italia sono molto simili a quelli che si potevano osservare al termine del governatorato Carli. Lacci e lacciuoli, intesi come rigidità legislative, burocratiche, corporative, imprenditoriali, sindacali, sono sempre la remora principale dello sviluppo del nostro Paese. È di evidente attualità l'analisi di Carli nelle considerazioni finali del 71, sulle quali si svolse il mio esame con Federico Caffè. La nostra economia ha subito una ferita nell'impulso della spesa pubblica, pur se orientata nelle direzioni più congrue, nell'espansione creditizia, pur se attuata con coraggio, varranno da soli a restituirle vigore. Occorrerà che durante un certo intervallo temporale si realizzino incrementi nella produttività in modi compatibili con i più progrediti assetti che si mira a stabilire nella vita aziendale e nelle condizioni di lavoro. Se ciò non accadrà, saremo costretti ad accettare saggi di sviluppo inadeguati. Oggi non manca, come non è mancata in passato, la consapevolezza delle cose da fare, ma i movimenti della politica, del corpo sociale, sono apparsi impediti e l'azione è risultata largamente insufficiente rispetto al bisogno. la frase sui sindacati ha scatenato, tra virgolette, i sindacati, perché il segretario della CGIL Susanna Camusso ha risposto al governatore della Banca d'Italia: mi sembra un riproporre ricette che hanno già mostrato il loro fallimento. E il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, ha detto: ci sono alte autorità, riferendosi al governatore della Banca d'Italia, che spesso parlano a vanvera. Che mi paiono tutti smemorati in questo momento, nel fare una sola erba un fascio, e purtroppo il comportamento anche di alte autorità. Ci sono sindacati e sindacati, ci sono imprese e imprese, associazioni imprenditoriali e associazioni imprenditoriali. Credo che le massime autorità devono essere molto più attente a come parlano, perché stanno diventando loro un problema di esaltazione dell'antipolitica. Stanno giocando allo sfascio e spesse volte sono loro gli untori del populismo italiano. Tutte quelle appunto che parlano a vanvera, tutte quelle che al posto di pensare alla coesione pensano alla divisione, tutti coloro che al posto di offrirci delle ricette e con i fatti dimostrarci che è possibile andare avanti, fanno lo scarica barile. Talvolta anche rappresentanti del governo fanno questo. Mamma mia, per carità, giusto che la CISL replichi, ma lo sfascio del paese, l'antipolitica, perché il governatore della Banca d'Italia è vero che deve occuparsi anche del rapporto banca, anzi soprattutto del rapporto banca-imprese, però perché ha detto, diciamo che ha messo in mezzo anche i sindacati sulla, diciamo, sulla rigidità del paese, ma che sarà mai adesso addirittura l'antipolitica? E allora, se io dicessi che i sindacati hanno fatto poca autocritica sul ruolo che hanno svolto nell'irrigidire questo paese, poniamo per esempio il pubblico impiego, Bonanni, che rappresenta la CISL, che ha molti associati nel pubblico impiego, una domanda su questo se l'ha fatta? No, tutto bene? Cioè, se noi abbiamo questo pubblico impiego e questa, diciamo, un cattivo funzionamento della pubblica amministrazione, i sindacati su questo non hanno nulla da dirsi. Ma se dico questo sto diventando grillino? Sto diventando antipolitico? Sto puntando allo sfascio del paese? Bonanni. Allora, e parliamo del merito una volta che i sindacati. Guardate, Bonanni che interviene, dice: basta, adesso diventeranno licenziabili anche i dipendenti pubblici sulla base del merito. Oh, facciamo un bel ragionamento rivoluzionario anche per i sindacati. Vabbè, ci spostiamo all'ultimo intervento che vi faccio ascoltare, oddio, il penultimo, che poi c'è anche quello di Renzi, e mi riferisco a quello del vice ministro dell'economia Enrico Morando, intervistato oggi al Salone del Risparmio della nostra Deborah Rosciani. Ha detto che il governo Renzi non interverrà imponendo i contributi e pensioni di 2.500 euro, ma il piccolo contributo, come l'ha chiamato lui, di solidarietà, partirà dalle pensioni superiori ai 10.000 euro. Ma non è affatto vero che si interverrà imponendo contributi di solidarietà su pensioni a 2.500, 3.000 euro, non è così. Ci sono pensioni da 10, 15, 20.000 euro al mese, certo sono poche, ma ammetterete che sono consistenti, le quali sono state guadagnate attraverso una contribuzione che in nessun modo giustifica prestazioni di questo tipo. Ho appena finito di dire che nemmeno il mago di Omaha sarebbe stato capace di realizzare investimenti con rendimenti di questo tipo. In quel caso un piccolo contributo di solidarietà interno al sistema previdenziale, tra quelli che con contributi limitati si sono assicurati prestazioni così clamorosamente vantaggiose e quelli che vivono di stenti con 700 euro al mese, è possibile avere un po' di solidarietà interna? Io penso di sì. Giusto Morando, anche partendo dai vitalizi dei consiglieri regionali, ex consiglieri regionali, dei nostri deputati, d'accordissimo sul fatto che ci sono dei trattamenti pensionistici, quelli con retributivo, che un po' dovranno essere visti quando sono sopra una certa cifra, dai ragazzi, se no ognuno, bisogna armiamoci partite, le riforme devono sempre farle gli altri, i sacrifici devono sempre fargli gli altri. Allora adesso vado però col meteo e la pubblicità, tra molti messaggi di persone che dicono: ah, lei cosa dice sulla casa rispetto all'investimento in istruzione? mi arrivano molti messaggi anche di persone che hanno avuto i genitori che hanno fatto l'altra scelta. Ne leggo uno solo, deve essere di un nonno, perché dice: mio nipote ha fatto un'ottima università, è senza casa ma ha ricevuto offerte di lavoro dal mondo intero, farà la supervisor alla Metro Goldwyn Mayer a Las Vegas e ha 24 anni. Magari è servito, tanto anche se gli compravi monolocale, questa va a Las Vegas, che te ne facevi? Proprio una mentalità che personalmente non condivido, ci mancherebbe. Meteo, pubblicità e poi torniamo con Renzi e con la parte che riguarda gli investimenti esteri in Italia dopo l'operazione fatta dai cinesi, sia in Eni che in Enel. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Sette 39 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso sì, poi parliamo anche, se volete, degli F-35. Oggi c'è una dichiarazione del ministro Pinotti su questo, però andiamo prima alla borsa e poi passiamo a Renzi e arriviamo anche agli investimenti esteri in Italia e all'investimento in capitale sociale, invece, che era l'oggetto del convegno biennale del Centro Studi di Confindustria. La borsa, dicevo, Milano oggi la migliore in Europa, più 1,53%, di poco sotto Francoforte, più 1,44%, Parigi più 0,70%, Londra più 0,37%, perché per le banche, il Banco Popolare, che ieri ha annunciato il prezzo dell'aumento di capitale da 1,5 miliardi, schizza a 18 euro per azione, più 7%. Ci colleghiamo con i colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Dicevo, Banco Popolare, ma bene anche Monte dei Paschi, più 4,40%, Pop Emilia Romagna più 3,90%, Pop Milano più 3,70%, Intesa San Paolo la facciamo dopo, che abbiamo un'intervista a Messina. Devo dire, complice anche un BTP a 5 anni che tocca un nuovo minimo storico. Però insomma, fortissime oggi i bancari. Assolutamente, sicuramente, come dicevi tu, le aste sui BTP hanno influenzato questo trend. Il BTP a 5 anni è stato assegnato al nuovo minimo storico come rendimento, appunto, all'1,88%. In più ci sono anche le attese per settimana prossima per la riunione della BCE, c'è chi scommette tra gli operatori anche su un nuovo taglio dei tassi, e poi c'è anche il tema del Banco Popolare, che ieri ha comunicato il prezzo dell'aumento di capitale. Ci si attendeva uno sconto più consistente, addirittura superiore al 40%, alla fine è arrivato uno sconto del 30%, e oggi il titolo è balzato del 7% in borsa. Bene anche, come dicevi tu, anche gli altri istituti. Ci sono poi anche i conti di Intesa San Paolo, che al di là degli accantonamenti, insomma, delle svalutazioni, hanno fatto vedere un quarto trimestre molto brillante. Allora vediamoli subito questi conti. Pulizia nel 2013, viene fatta pulizia nei conti, che vuol dire soprattutto andare a iscrivere le sofferenze nella maniera più realistica possibile, diciamo, cioè i crediti che tu hai dato, che non ti arriveranno, probabilmente non ti torneranno più indietro. Allora, la perdita del 2013 è di 4,55 miliardi contro 1 miliardo e 6 di perdita nel 2012, come appunto effetto di una politica di accantonamenti rigorosa e prudenziale. Cosa vuol dire tradotto? Che quando ti aspetti che alcuni crediti non ti ritornino più, devi accantonare dei soldi da parte. Ecco perché la perdita quest'anno è di 4 miliardi e mezzo. Però il nuovo piano di impresa 2014-2017 vede il raggiungimento nel 2017 di un utile netto di 4 miliardi e mezzo di euro e dividendi complessivi di 10 miliardi di euro in questi prossimi 5 anni. I dividendi saranno di 1 miliardo quest'anno, 2 miliardi per il 2015, 3 miliardi per il 2016, 4 miliardi per il 2017. E aggiunge l'amministratore delegato Carlo Messina: siamo la banca più forte d'Europa per capitale e per liquidità. Intesa San Paolo chiude il 2013 come la banca più forte d'Europa per capitale e per liquidità. Una banca italiana è la più forte banca in Europa per capitale e per liquidità. Abbiamo un livello di common equity che è superiore al 12%, 12,3%. Questo significa un eccesso di capitale rispetto ai parametri di Basilea 3 per le Global SIFI, per quelle banche che operano su scala internazionale, e noi non siamo una di quelle, del 9,5%, rispetto al 9,5% abbiamo un eccesso di capitale di 8 miliardi di euro, rispetto al limite minimo dell'8% di common equity, che è quello che verrà utilizzato per gli stress test, noi abbiamo un eccesso di capitale di 11 miliardi di euro. Lo stesso per liquidità, noi abbiamo una posizione di liquidità oggi che comporta sul fronte del medio e lungo termine un eccesso di liquidità di 60 miliardi di euro. 60 miliardi di euro che significano rispettare Basilea 3 oggi nelle regole del 2018-2019. Siamo una banca che non ha mai fatto mancare il suo sostegno all'economia reale, mai. La nostra offerta di credito è sempre stata solida, forte. Abbiamo erogato più soldi di quanti ne abbiamo presi dalla BCE. Abbiamo preso 36 miliardi di euro dalla BCE, ne abbiamo erogati oltre 50 miliardi di euro. Quindi la nostra forza patrimoniale è stata sempre messa a sostegno dell'economia reale di questo Paese. Appunto Carlo Messina. E ancora, per quello che riguarda le partecipazioni, saranno tutte dismesse, comprese quelle in Rizzoli, Corriere della Sera e in Alitalia, entro il 2017, e così come ha continuato Messina, abbiamo già fatto con le partecipazioni di Intesa in Generali e in Pirelli. Noi dismetteremo 1,9 miliardi di partecipazioni durante il periodo del piano. Quindi tutte le partecipazioni verranno dismesse, tutte quelle che mi chiederete, credo, nel corso delle interviste, tutte dismesse, tutte fuori dai libri entro il 2017. Ciao Condina, ha reagito bene il mercato, più 3,5%, San Paolo va, Intesa San Paolo va a 2,40 euro. Sì, assolutamente, oggi come dicevamo è andato bene tutto il comparto bancario, di sicuro anche la conferma del dividendo sulla stessa linea rispetto all'anno scorso, anche se poi il bilancio si è chiuso come dicevi in rosso a causa degli accantonamenti, ha contribuito a questa buona performance. Altri titoli dopo il traffico. Focus Economia. Dicevamo, cioè, Condina, al di là delle banche oggi tutte bene forti, Eni ed Enel non è che abbiano avuto dall'operazione cinese che commenteremo tra poco un Enel ha fatto più 1,20%. Eni però ha ceduto, ha annunciato oggi di aver anche chiuso il collocamento del 7% del capitale sociale della portoghese Galp e di avere incassato 700 milioni di euro. Il titolo non mi è sembrato molto molto mosso, però. No, diciamo è cresciuto un po' nel finale, sì, più da 1,5%. Comunque sì, in realtà diciamo l'ingresso dei cinesi Enel era stato certificato ieri dalle comunicazioni Consob, però neanche ieri c'era stato un grande responso del mercato, un grande movimento, insomma. E allora, mentre poi ricordo anche chi è andato meno bene, ST Microelectronics meno 1%, GTEC meno 0,50%, Mediaset meno 0,40%, Unipolsai meno 0,40%, bene invece anche Pirelli più 3,20%, Buzzi Unicem più 2,30%, UbiBanca più 2,1%, Cometerna, Fiat ed Exor, il 2% lo guadagna anche Snam e CNH, migliori e peggiori in assoluto, Compagnia della Ruota più 28,1%, ma c'è una notizia, non chiedo. Guarda, per curiosità ho guardato quanto capitalizza, 7 milioni. Vabbè, dai, questo appunto, dice tutto. Sei stato tu a muoverla. Ross più 9,87, Telecom Italia sul risparmio più 8,70, Noema Life più 8%. Fronte opposto invece Hyreal meno 4%, WM Capital meno 4,40%, Leone Film Group meno 3,77%. Grazie, Leone Film Group è quella che ha portato The Wolf of Wall Street e poi si è collocata in borsa. Grazie a Ciao Condile, buon fine settimana a te e i colleghi di Radio Corriere, Sole 24 Ore. Adesso restiamo invece in tema di Eni ed Enel, o meglio in tema di investimenti esteri in Italia. Allora, discutere, appunto tramite comunicazioni Consob, avere scoperto che ieri la banca centrale cinese ha avuto più del 2% del capitale di Eni ed Enel. Tra l'altro questo sempre nel giorno in cui si è saputo che il fondo americano Invesco detiene il 5,06% del RCS. Però diciamo la fetta grossa, i big fish, come dicono gli americani, appunto sono Eni ed Enel. Allora, perché lo dico? Perché nel frattempo a noi risulta che il governo cinese ha messo a disposizione delle aziende cinesi circa oltre 300 miliardi di dollari nei prossimi 7 anni per internazionalizzarle. Ebbene, la maggior parte di questi soldi le aziende cinesi le vorrebbero investire in Europa. Non distinguono tra Italia, Francia e Germania, vanno a vedere le singole imprese, possono essere piccole, medie, e ci sono tantissimi cinesi in delegazione nei vari settori industriali anche in Italia in questo periodo. Il vice ministro Morando, sempre al microfono della nostra Deborah Rosciani, in merito all'investimento della Cina, della banca centrale cinese in Enel ed Eni, ha detto: ma che problema c'è? Ma ci mancherebbe, che problema c'è? Diciamo, se qualcuno sceglie un'impresa italiana per investirci sopra, mi devo lamentare, mi lamenterò del contrario. Io sono personalmente d'accordo con Morando, ma vorrei sentire se questi segnali sono segnali di un'Italia un po' più attraente sugli investimenti, oppure è proprio perché si chiamavano Eni ed Enel. Grazie al presidente delle banche estere in Italia, Guido Rosa, l'AIBE. Buonasera Rosa. Buonasera a tutti. Già altre volte nostro ospite. Voi lunedì presenterete l'osservatorio AIBE Index. Esatto. Che dovrebbe misurare l'attrattività dell'Italia nel mondo. L'AIBE Index va da una scala da 0 a 100, dove ci collochiamo? Allora, questo lo diremo lunedì, presenteremo lunedì questo osservatorio. Abbiamo preso questa iniziativa perché ci sembra con questa di poter dare un contributo, anche se critico ma fattuale, al miglioramento del sistema Italia. In realtà questo osservatorio si differenzierà molto da altri indici o altri giudizi che vengono dati dalle agenzie di rating, dalla World Bank, eccetera, perché sarà basato su un'indagine statistica, su un certo numero di pannellisti che sono operatori o giornalisti o insomma gente concreta che non lavora semplicemente sui modelli econometrici come fanno le agenzie di rating. A me non mi avete chiamato, quindi non sono né concreto né giornalista, forse. Come no, Barisoni, si figuri se non l'abbiamo detto. Ma io non ho partecipato comunque, diciamo pure in diretta, io non ho partecipato. Non importa, si figuri, non mica sono offeso. Ne approfitto per dire che siccome questa cosa avverrà alla Camera di Commercio a Milano alle ore 11 lunedì mattina, chiunque vuole intervenire è benvenuto. Vabbè. Ci sarà anche il viceministro Casero e l'ingegner Recchi, che è appunto presidente di Eni e tra l'altro anche responsabile di Confindustria degli investimenti esteri. Bene, e questo appunto lunedì alle 11, però io l'ho chiamata perché ci diamo un'anticipazione. Allora, sì. Mi dice dove ci collochiamo con sto indice, Rosa? Insomma, ci collochiamo bassi, molto bassi. Questo lo dico perché e faccio riferimento. Quanti punti da 0 a 100? È da 0 a 10, insomma, diciamo in una forchetta bassa. Adesso non è che non posso dare il numero perché questo verrà detto. Ma se io dicessi che da 0 a 100 siamo a 33? Insomma, è da 0 a 10, non è. Allora, da 0 a 10 che siamo a 3,3? O una cosa, diciamo, in una forchetta bassa. Ma mi premeva dire questo rispetto a quanto diceva prima. Questi investimenti dei fondi in Eni, Enel, così come peraltro è stato nel passato per BlackRock. BlackRock, certo, in Unicredit e Intesa. Banche italiane. Sono naturalmente un segnale di per sé positivo. Sono assolutamente d'accordo con lei e col vice ministro che l'ha detto: ben vengano i soldi dall'estero. Nell'interpretare positivamente questa cosa, però un qualche maggiore modestia io la metterei, perché fa sempre una grande differenza fra gli investitori finanziari che vengono a investire, soprattutto se sono fondi di investimento, in azioni quotate, perché questi non hanno una logica di azionista di riferimento con dei piani di sviluppo, certo. Vengono per fare i cosiddetti capital gain. E quindi è una cosa un pochino diversa rispetto a quanto rispetto a chi noi si invece... compra, esatto, rispetto a chi invece va a comprarsi un'azienda italiana perché crede nell'Italia. Sono... Esattamente, oppure prende addirittura un'iniziativa. Il problema qui, la grande differenza è questa, che questi sono segnali positivi perché, e questo è quello che sentiamo anche noi, un certo miglioramento dell'immagine, anzi nelle aspettative sul sistema Italia, si sta verificando e questo è molto positivo. Il passaggio fondamentale che io vorrei veramente vedere, spero che questo osservatorio aiuti le autorità a migliorare, è che è un sistema ancora estremamente poco attrattivo per coloro che vogliono venire appunto a investire industrialmente, a creare delle nuove iniziative o a partecipare in aziende piccole e medie con dei piani di sviluppo. Questo perché purtroppo il sistema Italia ha ancora una serie di criticità assolutamente negative, che sono poi e quelle che poi riprenderemo anche nell'osservatorio. Quelle che poi conosciamo ahimè molto bene, incertezza della giustizia civile, burocrazia, peso fiscale, quant'altro, tutta colpa dell'euro, vero? Se arrivasse la liretta questo scomparirebbe, va bene, lo dico a chi mi sta scrivendo. Grazie Guido Rosa, e quindi a lunedì per la presentazione dell'indice, il GR, e poi torniamo in diretta. Focus Economia. Alle 18 e 8 minuti riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Dunque, entriamo nel vivo del tema che è il tema portante della due giorni che biennalmente il Centro Studi Confindustria dedica agli scenari economici. Mi riferisco al capitale sociale, prima però, e quindi l'investimento anche in istruzione. Tornerò anche su alcune mie dichiarazioni che hanno creato hanno spaccato in due gli SMS, mettiamola così. Però prima vorrei far ascoltare un passaggio di Matteo Renzi sulla necessità, quindi del Presidente del Consiglio, sulla necessità di sburocratizzare il paese. Questo è un paese che, per sapere i numeri di alcune voci di bilancio o di soggetti attuatori di determinate norme, vede aprire tra i dirigenti dello Stato un dibattito. Cioè, per sapere, per conoscere la realtà di alcuni fatti, non è che c'è, tu pigi, digiti un tasto, chiedi una statistica, ti fai dare, ma no, si apre il dibattito. Io mi aspetto da un momento all'altro che facciano il collegamento con Pagnoncelli che dà le previsioni. È stupefacente come noi abbiamo bisogno di mettere mano e forzare un sistema burocratico che per molti aspetti è fermo. Eppure, se la politica cambia se stessa, la politica ha le carte in regola per chiedere a tutti di cambiamenti. Io lo dico nella maniera più neutra possibile, speriamo che ce la faccia almeno Renzi a cambiare la nostra burocrazia, l'alta burocrazia, soprattutto appunto dirigenti molto più pagati dei loro corrispettivi europei, molto meno efficienti in molti casi dei loro corrispettivi europei. Abbiamo già detto che poi, come ha scoperto Sole 24 Ore, in realtà tra dirigenti chi sta sopra gli 80.000 euro sono il 90%, se lavori al Ministero degli Esteri o se sei un magistrato non ce n'è nessuno se fai il dirigente scolastico, quindi anche lì attenzione alle generalizzazioni. Però qui stiamo parlando dei capi dipartimento e anche dei ministeri, mi sembra di capire, e su questo è scandaloso. Se uno inizia il rimpallo, a questo punto deve, essendo un dirigente, può anche andarsene a casa, tanto capri da anni, perché sennò vuol dire che stai solo utilizzando il tuo potere per rallentare l'attività decisionale. Su un altro tema di cui si dibatte molto, faccio solo notare una cosa: mi continuate a chiedere degli F-35. Oggi il ministro alla difesa Roberta Pinotti ha detto: i militari stiano sereni, non vi saranno passi indietro, non voglio che il sistema d'arma, l'F-35, diventi un aereo, il cattivo della questione. Allora, uno può pensarla come vuole sui 90 F-35, erano inizialmente 130, sono scesi poi a 90, che ci costeranno tra i 12 e i 14 miliardi. Faccio solo notare due cose. Uno, l'Italia fa parte della NATO e garantisce un sistema di difesa aerea. Se poi uno vuole uscire dalla NATO e non avere più un sistema di difesa aerea, va bene, però finché stiamo nella NATO questo è anche un obbligo dei paesi, cioè dobbiamo garantire la sicurezza del nostro spazio aereo. e 90 è un numero al limite per garantire la copertura e la sicurezza dello spazio aereo italiano. Secondo aspetto, noi gli F-35 è vero che li compriamo, ma li produciamo anche. Fino a questo momento abbiamo avuto contratti dalla Lockheed Martin, che poi è il committente finale, per 27 aziende italiane per un valore di 670 milioni di dollari. PricewaterhouseCoopers stima, come riportato da Sole 24 Ore, che alla fine, mantenendo noi, se noi manterremo l'ordine e manteniamo anche la possibilità di produrre questi aerei, parte di questi aerei, avremo un beneficio che di 15 miliardi e 700 milioni di dollari in commesse, e praticamente mezzo miliardo l'anno, con un'occupazione che dovrebbe essere riguardare 5.400 posti di lavoro all'anno dal 2017 al 2026. Allora, uno può dire: no, non voglio gli F-35, e va bene, non voglio la difesa aerea, perché se non vuoi quelli devi comprare qualcos'altro. Non è che il resto del mercato offre aerei più economici, penso alla Dassault, e quindi ai francesi o agli svedesi della Saab. Però se uno vuole la difesa aerea, faccio solo notare che gli F-35 portano da noi più soldi di quelli che ci costano, o male che vada si arriva al pareggio, visto che li produciamo. Questo è il dato oggettivo. Poi uno, ripeto, può essere politicamente contrario agli F-35, ritenere che chi se ne frega dei 15 miliardi di euro di dollari di commissioni e degli occupati del settore, perché è chiaro che se tu rinunci alla commessa perdi anche, questo è nei patti, perdi anche la possibilità di produrli, parzialmente produrli. Andiamo ai temi della due giorni del centro sud di Confindustria. È arrivato poco fa il ministro al lavoro Giuliano Poletti, che ha difeso il decreto sul lavoro, lo ha fatto al microfono del nostro inviato Vincenzo Miglietta. Io penso che ci sia una normale discussione, perché quando si interviene su terreni delicati, come naturalmente è il terreno del diritto del lavoro, è normale che si discuta. Il Parlamento deve fare una discussione, noi abbiamo fatto una proposta, siamo profondamente convinti della bontà di questa proposta e quindi noi la difenderemo al meglio. Poi è normale che nella discussione si possano trovare anche degli aggiustamenti dove ci si convinca che sono utili. Noi abbiamo fatto un intervento che aveva chiaramente il segno della semplificazione, della chiarezza, dell'evitare contenziosi e del rendere le parti certe rispetto agli accordi che fanno. E mi pare che questo orientamento è un orientamento generale che tende appunto a rispondere a quello che dice il Visco quando interviene dicendo: abbiamo bisogno di semplificare, abbiamo bisogno di togliere blocchi, e credo che sia vero. Credo che ci sia una stranissima situazione. Quando una cosa è buona per l'impresa, io penso che sia buona anche per i lavoratori, perché di norma penso che i lavoratori hanno interesse a che l'impresa abbia la migliore delle condizioni possibili per agire, e quindi io questa separazione di interessi tra i lavoratori e l'impresa fatico molto ad accettarla come regola generale. Devo dire che il concreto e pragmatico ex presidente della Lega Coop ha detto una cosa, a mio avviso, che è difficilmente contestabile, salvo alcuni casi, cioè l'interesse delle imprese, l'interesse dei lavoratori spesso coincidono se c'è un rapporto sano. Ho detto salvo alcuni casi, perché abbiamo visto casi invece in cui l'interesse dell'impresa non coincideva con quello dei lavoratori, e anche viceversa. Un'ultima notizia che riguarda i compensi dei manager, il tema della settimana dopo le dichiarazioni di Moretti. Allora, dal 1 aprile i compensi dei manager delle società non quotate direttamente, non quotate o che non possono emettere obbligazioni, verrà portato subito a 295 mila euro lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione. I limiti non riguardano infatti Enel, Eni, Finmeccanica né Ferrovie, Cassa Depositi e Prestiti e Poste, per il motivo appunto che in alcuni casi sono quotate, in altri possono emettere obbligazioni. Però il Ministero dell'Economia, in occasione del rinnovo dei consigli di amministrazione di Eni, Enel e Finmeccanica, proporrà il taglio comunque del 25% degli stipendi attualmente percepiti dai presidenti e dagli amministratori delegati di Eni, Enel e Finmeccanica. Adesso il traffico e poi ci colleghiamo con Bari per farci raccontare dallo stesso direttore del Centro Studi Confindustria cosa vuol dire investire in capitale sociale, investire in istruzione e quando abbiamo smesso come paese di investire. Focus Economia. Allora, noi, secondo un recente studio dell'OCSE, siamo l'unico paese dell'area OCSE che dal 1995 non ha aumentato la spesa per studente nella scuola primaria e secondaria. Negli altri paesi dell'OCSE questa spesa per la scuola primaria e secondaria è cresciuta del 62%. Fa notare sempre l'OCSE che dal 2005 al 2011 i risparmi li abbiamo conseguiti soprattutto riducendo gli insegnanti, ma nota anche che per ora questo sembra non aver compromesso i risultati di apprendimento. Però abbiamo il livello più anziano in Europa del corpo insegnanti, metà degli insegnanti della scuola elementare e il 60% di quella secondaria e delle superiori ha più di 50 anni. Iniziando il programma e ricordando questo appuntamento, ho detto ci sono responsabilità della politica, della scuola, dei sindacati, del merito che manca, ma anche un po' delle famiglie italiane, e facevo l'esempio di quanto avviene nel mondo anglosassone, che invece, che quando uno ha la possibilità di risparmiare, visto che noi siamo il paese che ha ancora il tasso di risparmio più alto in Europa, invece che risparmiare per comprare l'appartamentino al figlio, si risparmia per mettere i soldi da parte per fare studiare il figlio nelle scuole migliori, dove così troverà possibilmente lavoro e l'appartamento se lo comprerà da solo, altrimenti rischi di comprare il monolocale di un figlio che ci sta dentro a guardare le pareti perché è disoccupato. Ho usato volutamente questa provocazione, vedo che vi siete spaccati in due, però mi interessa di più capire il calcolo che ha fatto oggi il Centro Studi Confindustria su quanto innalza il PIL, innalza l'economia avere dei ragazzi che studiano e quanto anche serve avere lauree e ciclo di studi chiaramente mirato. Luca Paolazzi è il direttore del Centro Studi Confindustria, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Non, se vuoi darmi anche tu un commento, se è meglio mettere i soldi da parte per comprare l'appartamentino al figlio o per spendere per il college o per la formazione alta come fanno nel mondo anglosassone, sei il benvenuto, ma vorrei soprattutto, Luca, che tu ci raccontassi che cosa è emerso dal vostro studio e ricerca sull'impatto della formazione, dell'istruzione, quanto poi a PIL di un paese e a possibilità di trovare un lavoro. Riguardo al referendum, direi che equivale alla domanda meglio diciamo regalare un pesce o insegnare a qualcuno a pescare. La risposta credo ciascuno sappia dare da solo, quindi sicuramente io sono a favore di chi investe nella formazione dei figli e li consenta poi di crescere e costruirsi la loro vita. Se poi riesce a dargli anche l'appartamento, meglio, ma la priorità è l'istruzione. Detto questo, l'investimento in capitale umano è quello a più alta redditività, non lo diciamo solo noi, lo dice anche un premio Nobel come Heckman, ha una redditività elevatissima, tant'è che se noi oggi riuscissimo istantaneamente, per miracolo, colpo di macchetta magica, diciamo come vogliamo, a innalzare il nostro capitale umano ai livelli dei migliori, che so io, del Canada, degli Stati Uniti, in termini di quota di laureati, potremmo d'un balzo arrivare ad avere diciamo un reddito pro capite di un 15% superiore all'attuale, significano circa 3.900 euro l'anno in più per abitante, compresi gli infanti e comprese le persone che non lavorano più perché hanno raggiunto un'età per cui non sono considerate più utili al lavoro, anche se questo diciamo questa soglia di età sta cambiando rapidamente. E questo, quindi tu dici il PIL crescerebbe se noi potessimo all'improvviso, diciamo da un giorno all'altro, a toccare il livello dei paesi più avanzati, avremo un PIL che cresce del 15% in termini reali, cioè 234 miliardi in più, appunto il guadagno di 3.900 euro per abitante, bambini e anziani inclusi, all'anno. E invece quanto ci costa avere i NEET, cioè i giovani che non studiano, non lavorano e non si formano? Sono 32 miliardi all'anno, ma vorrei sottolineare... Scusami, ti abbiamo perso un secondo, Luca, 32 miliardi? Esattamente, questo sono... a quello precedente, calcoli in qual modo statici. Quello che importa di più è il fatto che la società sarebbe più dinamica, più aperta, il tasso di crescita, non soltanto il livello del PIL aumenterebbe, o i costi dei ragazzi che non studiano e non lavorano, ma avremo un ritmo di sviluppo più elevato, avremo una società più aperta, avremo maggiore tolleranza, avremo meno disuguaglianze, saremo in altre parole una società migliore. E questo diciamo ha un valore non solo economico. Hai ragione, prevengo però un'obiezione che in parte hanno già fatto gli ascoltatori, dicono sì, ok, però se poi nel paese non regna il merito, tu puoi aver studiato dove vuoi, ma poi i principi di promozione sono altri, sono di inclusione per altro genere, di cooptazione per altri motivi. Sono d'accordo, però abbiamo anche dimostrato, fatto vedere, illustrato come questo diciamo fatto, cioè che contano le conoscenze più che la conoscenza, è un elemento che viene superato se si aumenta il tasso di istruzione della popolazione nel suo insieme, perché in questo modo migliora il capitale sociale delle persone, cioè quell'insieme di valori che fanno funzionare bene una società. Le raccomandazioni sono un disvalore, in questo senso una maggiore istruzione della popolazione italiana farebbe venire meno anche l'appoggio generale al fatto che si vada avanti per relazioni personali piuttosto che per capacità dimostrate. E quindi tu dici è chiaro che se poi tuo figlio, sintetizzo in maniera un po' brutale, è poco istruito, tendi a spingere più sulla leva relazionale, quindi la raccomandazione, la spintarella, chiamata come volete, invece un paese che avesse fatto un salto nell'investimento sia dello Stato verso la scuola ma anche delle famiglie, non sottraetevi, verso l'istruzione dei figli, ridurrebbe l'acqua diciamo nell'acquario della raccomandazione, della spintarella. Sì, sì, certamente, nel senso appunto non è soltanto il fatto che mio figlio non ha studiato e quindi lo raccomando perché sennò non trovo lavoro, è proprio il fatto che la società diventerebbe meno tollerante e addirittura finirebbe per isolare e marginare la pratica della raccomandazione, perché tutti quanti a questo punto, avendo investito molto nell'istruzione, nell'educazione dei figli, vorrebbero un ritorno da questo investimento che fosse basato appunto sulla competizione e sul merito. Su questo, tu nell'intervento che ha aperto i lavori della Due Giorni a Bari, hai detto: per anni siamo stati il paese dei balocchi, la crisi, abbiamo pensato di vivere nel paese dei balocchi, la crisi è stato un brusco risveglio ma ancora non sappiamo come uscirne. Perché paese dei balocchi? Ma in realtà non ho detto che noi abbiamo vissuto tutti quanti. No, non tutto. Ho parte detto del tanti, paese. Tanti e per troppo tempo. Beh, per proprio quello che dicevo prima, cioè il fatto che si è pensato che ci fossero delle scorciatoie alla conquista del benessere, se fosse la possibilità di arrivare facilmente a certi traguardi senza impegno, senza grande fatica, contando sullo stellone, sulla buona fortuna, sulla sorte, sulle spinte, peggio mi viene da dire sulla corruzione, sulle bustarelle. In questo senso abbiamo vissuto nel paese dei balocchi, chi ricorda Collodi e l'avventura di Pinocchio sa che nel paese dei balocchi poi tutti diventano somari. Ecco, io vorrei però sapere, ma non ti voglio mettere in difficoltà nel salutarti, appunto evito chi è stato mangiafuoco, però, perché sai, se andiamo su Collodi poi andiamo su un terreno anche scivoloso. Però io sono, al di là della battuta, sono d'accordissimo con te, vedo molti che dicono ma tanto che lo faccio studiare poi resta disoccupato, comunque dipende moltissimo anche dalla laurea o dalla scuola superiore che uno fa, però attenzione, non se ne esce con le scorciatoie, non è tempo con questa crisi di scorciatoie. Grazie e buon lavoro, visto che i lavori proseguiranno anche domani, al direttore del Centro Studi di Confindustria Luca Paolazzi. Domani vi saranno anche appunto la segretaria della CGIL Camusso, il governatore della Banca d'Italia Visco, chissà se continueranno lo scambio di battute abbastanza pesanti viste oggi, e poi chiuderà i lavori il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Per quello che riguarda invece questa puntata siamo al termine. Da Sebastiano Brisoni l'auguro di una buona serata a voi in ascolto. Noi ci risentiremo lunedì dalle 17 in poi. Come sempre, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Radio 24. La passione si sente.